5C. Ascolta e rispondi. Dove avete studiato? Abbiamo studiato a Londra. Cosa avete comprato? Abbiamo comprato una borsa. Chi avete salutato? Abbiamo salutato i signori bianchi. Quando avete prenotato? Abbiamo prenotato un mese fa. Quanto avete pagato? Abbiamo pagato 100 euro. Con chi avete viaggiato? Abbiamo viaggiato con gli zii.